Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Dobbiamo lavorare perché alcuni dei talenti che vengono fuori da questo territorio possano restare e dare i loro frutti qua. È importante il viaggio, ma è importante anche che i territori sappiano attrarre indietro i talenti e quindi che non siano solo produttori di persone che poi vanno in tutto il mondo a fare il loro meglio, ma che possiamo anche attrarre delle persone non solo di Napoli, perché non è che debbano restare solo i napoletani, quindi non possiamo solo dare, dobbiamo anche ricevere. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. È la frase della settimana, copyright del nuovo ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, in visita a Napoli, a introdurci alla puntata di oggi. Vi invitiamo a fissare bene in mente il concetto che sottolinea il ministro Carrozza, quello della circolazione dei talenti. Formarsi in Italia, andare all'estero a specializzarsi e poi tornare per contribuire allo sviluppo del paese. Più facile a dirsi che a farsi, come vedremo anche attraverso la storia di oggi che arriva dalla Gran Bretagna. Il problema, infatti, come lei ben sa, ministro, sono gli ostacoli che il sistema paese pone alle aspiranti controesodati, il nostro basso tasso di attrattività. Ma ci sono anche controesodati che provano a rientrare. Oggi a Giovani Talenti i primi dati in esclusiva assoluta relativi al 2011. Restate con noi. Non penso di avere opportunità e dovessi tornare all'Italia, comunque dovrei ricominciare da zero con uno stage, mi viene in mente. Quindi al momento sto guardando altri paesi, di non tornare in Italia. Roberta Facchini, 26 anni, è trainee internet investigator a Londra. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Nuova esclusiva di Giovani Talenti, sono stati quasi 4.000 gli emigrati under 40 ad aver beneficiato nel 2011 della legge contro esodo per il rientro in Italia e la sorpresa è che ad aver approfittato della normativa sono state soprattutto le donne. Secondo l'Agenzia delle Entrate, 3.838 cittadini sono rientrati grazie agli sgravi fiscali, oltre 3.500 sono lavoratori dipendenti, 262 gli imprenditori o lavoratori autonomi, quasi il 60% sono donne. Il deputato PD Guglielmo Vaccaro, ideatore della legge, commenta così i dati a Giovani Talenti. Sono la testimonianza di un successo, di una legge che ha funzionato e che continuerà a funzionare a ritmi impressionanti, che hanno superato di gran lunga anche le aspettative di noi proponenti. Bisogna rendere permanente questo strumento e accompagnarlo con altre politiche che possono accelerare la mobilità dei talenti. È impressionante notare come se espatriano di più gli uomini, in questo caso nel rientro sui dati dei controesodati sono le donne a farla, diciamo, da padrone. Come leggere questo dato? Ve l'aspettavate? Le donne anticipano la tendenza, hanno probabilmente studiato prima e meglio la legge, gli uomini seguiranno, ma c'è da dire che nella legge c'è una preferenza in termini di tassazione che privilegia le donne, che pagano solo sul 20% dei redditi futuri per 3 anni, a differenza degli uomini che pagano sul 30%. Quindi la politica di genere trova un riscontro negli effetti che la legge ha prodotto. Enrico Letta è stato il primo firmatario della legge contro esodo, il PD e il PDL l'hanno portata avanti assieme, ora Enrico Letta è premier. Da dove intendete ripartire? Come intendete portare avanti questo discorso di riattrazione del nostro capitale umano e di circolazione dei talenti in Italia? Sicuramente ci sarà la possibilità con questo governo, con le larghe intese, di completare il pacchetto contro esodo con ulteriori incentivi a chi va all'estero a formarsi, a qualificarsi, a professionalizzarsi per poi rientrare un domani nel nostro paese. Lo faremo presto insieme al Premier, speriamo di poterlo fare anche grazie a chi è rientrato, che presto incontreremo in una convention. Avete già qualche misura concreta in mente per questa legislatura? Nella battaglia globale sui talenti c'è da riequilibrare in termini di arrivo da parte di talenti stranieri sul nostro territorio. Tutte le info a www.controesodo.it. Il flusso migratorio verso la Germania ha toccato lo scorso anno un nuovo record da 17 anni a questa parte a causa del netto aumento dell'immigrazione da paesi meridionali dell'Eurozona. Secondo i dati diffusi dall'ufficio di statistica Destatis, l'anno scorso 1 milione di persone si sono trasferite in Germania, più 13% rispetto al 2011. Il picco tra i paesi in crisi, gli arrivi dal nostro paese sono cresciuti del 40%, più 12.000 persone, quelli dalla Spagna del 45% e quelli da Grecia e Portogallo del 43%. Sta esplodendo in Europa la questione della disoccupazione giovanile di una generazione senza lavoro. E questa è la nuova grande questione sociale del nostro tempo. In tale difficile situazione aumenta l'emigrazione, soprattutto di giovani italiani con alti livelli di istruzione che cercano e trovano lavoro all'estero. Questa è la denuncia del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Dalla penisola fuggono anche le imprese. Dal 2000 oltre 27.000 aziende hanno deciso di trasferire all'estero parte dell'attività. Lo rileva la CGA di Mestre, secondo cui nell'ultimo decennio l'incremento è stato del 65%. E c'è tempo fino al 16 maggio per partecipare al bando di concorso con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e ISNAF mettono in palio 9 borse di studio da utilizzare presso centri di ricerca e università del Nord America. Le borse sono riservate a giovani ingegneri. Tutte le info a cni.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta al di là della Manica. Londra, la grigia e fumosa capitale britannica, teatro nei secoli di tanti libri gialli, e abbiamo scoperto anche un punto di approdo per i nostri giovani criminologi. Chi è il colpevole di questa diaspora? Ci arriveremo ricostruendo numerosi indizi. Nome: Roberta. Cognome: Facchini. Età: 26. Città di origine: Fano. Studi: Scienza dell'investigazione e Scienza della criminalità. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? A Londra. Perché? Per uno stage. Qual è il lavoro svolto attualmente? Trainee Internet Investigator. Dove? A Londra. Tornerai? Non lo so, ancora non è in programma. Stuck in the UK, inchiodati nel Regno Unito. Mi chiamo Roberta, vivo a Londra da un anno e mezzo. Dopo aver conseguito la laurea triennale specialistica in criminologia e sicurezza in Italia, ho avuto la fortuna di trovare lavoro in Gran Bretagna. Sicuramente una posizione come la mia sarebbe impensabile nel mio paese. Se dovessi tornare, non saprei proprio cosa fare né dove. Così, Roberta, ti sei presentata qualche mese fa a giovanitalenti@radio24.it. Quando si emigra dall'Italia, Roberta, si finisce per sentirsi un po' stuck, inchiodati nel paese di approdo. Eppure, in teoria, nei paesi normali non dovrebbe funzionare che un periodo all'estero rende più appetibile il proprio curriculum in patria? Beh sì, in teoria dovrebbe funzionare proprio così. Diciamo che arricchirsi professionalmente all'estero, anche imparare più lingue, dovrebbe rendere il proprio curriculum più appetibile. In realtà però poi non so se, ecco, tornando in patria sarà così. La tua storia di studio professionale rappresenta una prima assoluta qui a Giovani Talenti. Mai avevamo avuto ospite una criminologa. Tu all'estero approdi ben prima però dell'università, grazie a una famiglia molto lungimirante che ti incoraggia a viaggiare. Parti la prima volta a 15 anni. Al liceo linguistico trascorri un mese in Finlandia, poi un intero anno negli Stati Uniti. Quanto quelle esperienze sono state utili per formare la professionista di caratura internazionale che sei oggi? Sono state esperienze sicuramente decisive. Se non le avessi fatte, probabilmente oggi non mi troverei qua a Londra, in questi anni non avrei viaggiato anche così tanto. Sono indispensabili, le consiglio sicuramente a tutti i nostri giovani. Dopo l'ultima esperienza negli Stati Uniti, torni in Italia, ti diplomi, ti iscrivi all'università, ma a sorpresa, anziché lingue, scegli scienze dell'investigazione. Perché il crimine diventa la tua passione? Sono sempre stata appassionata, comunque affascinata dalla criminologia e dalle investigazioni. Diciamo, era una laurea di nicchia che però ho ritenuto che dava tante opportunità lavorative sia in Italia che all'estero. Diciamo, comunque il crimine è un settore, un business dove non c'è mai crisi. Esatto, un settore dove non c'è appunto mai crisi, quindi l'ho visto, ecco, con diverse opportunità lavorative sia in Italia che all'estero. E dal racconto che fai degli anni in università emerge un bilancio in chiaroscuro: ottima teoria ma poco propedeutica a trovare lavoro una volta fuori dalle aule. È così, che voto dai all'università italiana? Ma ritengo che le università italiane sono fantastiche dal punto di vista teorico, comunque danno un'ottima preparazione, e all'estero questa differenza con gli altri giovani si vede. Ad ogni modo poi non c'è un riscontro, nel senso che non riusciamo a trovare poi opportunità di lavoro nel momento in cui finiamo i nostri studi. Ti laurei con 100 decimi, devi con dispiacere rinunciare a proseguire sulla strada della specializzazione in psicologia criminale e scarti poi l'idea di studiare all'estero a causa dei costi elevati, fino a quando scopri una laurea specialistica a Milano. L'approccio agli studi in quel caso ti attrae? Approccio pratico con corsi di lingua inglese, meno teoria, più internazionalizzazione, maggiore pragmatismo. È questa la ricetta per il futuro dei nostri atenei, Roberta? Sì, decisamente. Per essere competitivi dobbiamo comunque presentare corsi più pratici, focalizzarci sulla lingua, perché non è possibile che all'estero ancora abbiamo riconosciuti per non saper parlare la lingua inglese. Il vero spartiacque nella tua storia è rappresentato dallo stage curriculare. Qui emerge qualche difficoltà dell'ateneo a fornirti contatti a livello internazionale. L'unica possibilità è all'ONU a Vienna, dove però le probabilità di assunzione sarebbero state pari a zero. Quanti curricula invii in giro per il mondo in un'estate intera? Guarda, avrò mandato un centinaio di curricula per un'estate intera a New York, Sydney e Londra. E beh, toglici una curiosità però, toglici una curiosità. Perché non l'hai mandata in Italia? Ah, in Italia non ho proprio cercato, non mi sono manco soffermata un secondo. Avevo opportunità col mio corso di laurea, però diciamo che non rientrava nelle mie idee. Cioè, volevo andare all'estero e esplorare comunque un paese più all'avanguardia nel settore della sicurezza. All'avanguardia, questa è una parola importante. Tempo a tornare. La ricerca si rivela tosta, ma chi la dura la vince. Ottieni una risposta positiva che ti indirizza verso la FACT, Federation Against Copyright Theft, a Londra, specializzata in difesa della proprietà intellettuale. Il colloquio per il tirocinio lo fai a pranzo con il direttore della FACT. Sei nella storia dell'organizzazione la prima a entrarvi da studentessa, senza alcuna esperienza di lavoro. Roberta, il mondo anglosassone è più accessibile per i giovani di talento? La competizione, posso dire che anche qui a Londra è altissima, perché comunque i ragazzi vengono assunti direttamente dopo una laurea triennale, quindi a 20-22 anni, quindi c'è tantissima gente in cerca di lavoro. Diciamo che non ti regala niente nessuno, però con tanto impegno, con forza di volontà e flessibilità, comunque le opportunità ti vengono date e quindi ci sono sicuramente più occasioni. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Alla fine del febbraio 2011 mi sono trasferita a Londra e non l'ho più lasciata, ricordi ora. Inizi come stagista per 4 mesi nell'unità Intrant mentre studi per gli ultimi esami. Poiché il tuo è un settore sconosciuto e più, Roberta, ci spieghi in breve cos'è la FACT e di cosa si occupa? La FACT è un organismo che combatte appunto la pirateria di film ed è un organismo finanziato dalla Motion Picture Association of America e quindi ci occupiamo praticamente di difendere i diritti dei maggiori studio americani come ad esempio la Walt Disney, la Universal, la Warner Brothers e facciamo investigazioni e indagini su siti internet illegali e su persone e gruppi di criminalità organizzata che sono connessi alla pirateria di film. Dopo lo stage ti propongono una sostituzione maternità nel ruolo di intelligence researcher, nel febbraio dell'anno scorso la laurea specialistica, poi con rientro della titolare del posto che occupavi passi a lavorare come trainee internet investigator presso l'unità web. Qual è, per farci capire, il tuo pane quotidiano? Svolgo investigazioni su siti illegali come ad esempio siti di streaming, di download o ad esempio siti che vendono DVD illegali e faccio indagini su questi siti a fine di chiuderli e di risalire alle persone che gestiscono questi siti o anche gruppi di criminalità organizzata che appunto lavorano dietro questi siti e al fine sì di arrivare poi anche all'arresto. Queste sono esperienze che purtroppo non potrai mai fare in Italia, specialmente a 26 anni. Qui in Inghilterra ti fanno sentire davvero importante, posso esprimermi dando le mie opinioni liberamente senza sentirmi giudicata da chi è più anziano. Sembra un'Italia rovesciata, Roberto, un mondo al contrario. E pensate un po', essere stranieri in Inghilterra, nonché poliglotti, è considerato anche un vantaggio. Sarò diretto. E il nostro modello culturale italiano, anziano e conservatore, poco orientato ai risultati e molto alle chiacchiere, ai giochi di potere e anche alle gerarchie, ad essere sbagliato e anacronistico? Decisamente sì, cioè qui mi ritrovo ancora a stupirmi quando a noi giovani vengono date certe opportunità, comunque. Ci ritroviamo, ad esempio, dei meeting dove siamo tutti giovani e i nostri manager a 40-50 anni comunque vogliono stare lì da noi, imparare da noi, ci vogliono far crescere. È un ambiente molto stimolante ed è decisamente opposto a quello che potrei trovare in Italia. In Italia hai mai pensato se potresti avere delle opportunità in questo settore? Penso proprio di no, devo dire la verità. In Italia il lavoro che sto facendo adesso qui a Londra lo potrei fare all'interno della polizia postale, ad esempio, una cosa simile. Però non penso di avere opportunità e dovessi tornare in Italia comunque dovrei ricominciare da zero con uno stage, mi viene in mente. Quindi al momento sto guardando altri paesi di non tornare in Italia. Capisco bene. Roberta, tu sei una giovane curiosa, aperta al mondo, decisamente esterofila. Come secondo lavoro, e lo riveliamo ora, sei fotoreporter e realizzi splendidi reportage fotografici. Sulla base del tuo sguardo globale, facci capire come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e come possiamo cambiare concretamente le cose. Purtroppo l'Italia di oggi la vedo come un paese ideale per le vacanze, o comunque lo vedo un paese ideale per viverci l'età della pensione. Non lo vedo un paese per i giovani tra i 20 e i 45 anni, non lo vedo un paese per lavorarci. Dobbiamo innanzitutto dare opportunità ai giovani e non spingerli a migrare in altri paesi per sentirsi comunque realizzati nel proprio lavoro. Bisogna garantire in Italia l'insegnamento ad esempio della lingua inglese, perché comunque siamo troppo indietro, non siamo competitivi all'estero e veniamo sempre riconosciuti per questa cosa. Giovani talenti, Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Roberta Facchini, 26 anni, Internet and Intelligence Researcher alla Federation Against Copyright and Theft a Londra. Roberta vi approda dopo un'adolescenza segnata da lunghi periodi di scambio di studio in Finlandia e Stati Uniti, prima di un'iscrizione alla laurea in scienze dell'investigazione all'Aquila. Successivamente si trasferisce a Milano per la specialistica in scienze del crimine e della sicurezza. Il periodo di stage necessario a concludere gli studi lo trascorre all'estero. Trova un tirocinio proprio alla FACTA, azienda internazionale specializzata nella difesa dei diritti di proprietà intellettuale. Oltre Maniche sperimenta un ambiente aperto ai giovani e ricco di opportunità, nel quale riesce a fare carriera poco più che ventenne, arrivando a lavorare come investigatrice nel settore internet. Sono esperienze che purtroppo non potrei mai fare in Italia, riflette Roberta amaramente. Ci raggiunge ora in linea Luca Giommoni, ricercatore a Transcrime a Milano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Luca, come si vede dall'Italia la storia di Roberta? Non fa venire voglia di dire, mannaggia, funzionassero anche qui le cose così per un giovane? Sicuramente la storia di Roberta è interessante e qua in Italia sarebbe difficilmente adattabile. Penso che guardando anche i miei colleghi, quelli che sono laureati con me, con Roberta, sono in pochi quelli che hanno avuto uno sviluppo in termini di retribuzione e anche di stimoli e responsabilità come quelli avuti da Roberta. E la tua storia è simile per sviluppo a quella appunto di Roberta, il finale potrebbe non essere neppure così dissimile. Anche tu ti laurei all'Aquila in scienze dell'investigazione, anche tu passi alla laurea magistrale in Cattolica Milano, scienze della criminalità. Tu però, a differenza di Roberta, hai scelto di restare in Italia. Perché e con quali prospettive? Io durante la laurea magistrale avevo trascorso qualche mese come stagista Transcrime, un centro di ricerca qua della Cattolica. Mi ero trovato bene, era un ambiente giovane dove stavo bene e avevo l'opportunità di rimanere come dottorando. Ho fatto quindi la domanda di borsa di studio, ho fatto questo bando che ho vinto, quindi ho deciso di rimanere. Ed entri appunto a far parte nel settembre 2011 del gruppo di ricerca di Transcrime. Hai curato tra le altre cose un interessantissimo e documentato rapporto sugli investimenti delle mafie in Italia, che invito davvero a leggere per farsi un'idea del paese in cui viviamo. Hai trovato un ambiente stimolante dove restare, la tua scelta insomma ha pagato in termini di stimoli professionali. Vedi in Italia un paese dove è possibile pianificare un futuro? Sicuramente Transcrime è un centro di ricerca molto importante, duro, impegnativo, con forti carichi di lavoro, dove però anche sicuramente si ricevono molti stimoli, responsabilità ed anche molte opportunità. Il problema è che semmai comunque io sono sempre un dottorando, quindi mi muovo sempre all'interno dell'università e della ricerca italiana. E quindi in questo è comunque in termini di retribuzione, di sviluppo di carriera per i vari step all'interno dell'università è sicuramente lunghissimo e incerto. Una curiosità, ma con i gravi problemi di criminalità organizzata che abbiamo in Italia, il nostro paese non dovrebbe essere un laboratorio internazionale per i criminologi, importandoli anche dall'estero? Non è assurdo che persino la vostra categoria finisca per guardare a opportunità oltre confine? Sicuramente dovremmo, però il problema è che la ricerca e l'università italiana in questo momento non sono, diciamo, appetibili, quindi i ricercatori italiani vanno all'estero, quelli dall'estero, almeno i migliori, non vengono in Italia, quindi credo che sia normale. Finché la situazione rimane questa sarà sempre difficile attrarre i migliori in Italia. Luca, tu ad agosto partirai per il Maryland per lavorare come research assistant. Cosa andrai a fare? Con quali aspettative? Ma soprattutto, il tuo sarà un arrivederci o un addio all'Italia? Io andrò negli Stati Uniti per 6 mesi, continuerò a lavorare su quella che è la mia specializzazione qua, che è criminalità organizzata e mercato della droga. Dopodiché sicuramente tornerò in Italia per completare il mio dottorato. Dopodiché vedrò, mi guarderò attorno, vedrò le opportunità in Italia, le opportunità all'estero e valuterò. Grazie a Luca Giommoni, ricercatore a Transcrime. Domanda di rito per Roberta Facchini. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Beh, sicuramente di non pensarci due volte. Io incoraggio tutti quanti di partire il prima possibile, perché al momento stare in Italia è un po' una perdita di tempo, devo dire la verità. All'estero ci sono comunque tanti paesi da esplorare, culture a cui avvicinarsi, le opportunità ci sono, bisogna cercarle ma ci sono. Quindi sono esperienze che arricchiscono e lo consiglio a tutti quanti. Qui in Inghilterra vedo tante opportunità, però ci sono comunque diversi paesi in base a cosa si è studiato, ma le opportunità vengono date ai giovani e quindi bisogna sfruttarle, perché in Italia adesso non è un paese in cui si può essere ambiziosi o comunque si può permettersi di sognare, all'estero sì. Sesta puntata dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 25 maggio sostituendo la rubrica Jobs Abroad. Premieremo 6 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da ora fino a domani a mezzanotte una email a concorseuropa@radio24.it con una proposta concreta da sottoporre agli europarlamentari. In premio per le migliori 6 proposte un viaggio a Strasburgo all'inizio di luglio. Attenzione però, la proposta, anche se inviata via email, dovrà essere contenuta in 140 caratteri al massimo. Il tema della settimana è: inviateci una proposta per un nuovo programma europeo di lavoro a favore dei giovani. Ripeto, un programma europeo di lavoro. La casella email concorseuropa@radio24.it, ricordate di indicare data di nascita, indirizzo e numero telefonico. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi andiamo in controtendenza, raccontandovi la storia di chi prova a resistere in Italia. Ben 150 giovani hanno promosso l'iniziativa Io Voglio Restare, una sfida a riconquistare i propri spazi e le meritate opportunità in un paese di vecchi, di famiglie e di caste. Claudio Riccio, promotore di Io Voglio Restare, ci spiega come nasce l'iniziativa. Nasce dall'esigenza di tanti, anche di mondi differenti, alcuni studenti, altri lavoratori, altri dottorandi, ricercatori, di attivarsi per provare a cambiare le cose in questo paese. Tanti di noi ogni giorno se ne vanno da questo paese e li vediamo andare via, abbiamo deciso di iniziare a impegnarci per provare a cambiare le cose, dato che chi se ne va dall'Italia non se ne va per curiosità ma per bisogno e necessità. Qual è un buon motivo per restare in Italia in questo periodo? Non ce ne sono molti, però probabilmente c'è senza dubbio il fatto che quello che sono i nostri problemi sono frutto di scelte politiche. Di scelte politiche sbagliate. La precarietà non è un problema che capita come la pioggia, ma è il frutto di scelte politiche. In quanto tali possono essere cambiate. Possono cambiare soltanto se chi vive in prima persona questi problemi si impegna. Tracciaci un identikit di voi, di questo gruppo che avete creato. È molto eterogeneo. Ci sono persone che si sono attivate per anni nel movimento studentesco e in altre associazioni, nelle associazioni antimafia, così come persone che non hanno mai fatto alcuna forma di attività politica e di impegno sociale. Io voglio restare, una generazione che non si arrende. Allora, per non andare all'estero, quali sono in sintesi le vostre proposte? Noi abbiamo lanciato 10 punti che in particolare si concentrano su alcuni temi. Noi diciamo che è legittimo andarsene da questo paese, ma serve cambiare prima di tutto il welfare per poter restare, un reddito di cittadinanza, l'estensione degli ammortizzatori sociali, la serenità di poter confrontarsi e scegliere il lavoro non soltanto restando sotto ricatto, così come la possibilità di costruirsi una vita qui. Come guardate a chi invece va all'estero, ai vostri coetanei che lasciano l'Italia? Senza alcun rancore né critica, sappiamo che c'è chi sceglie perché ha bisogno di partire. Noi non diciamo che è un problema lasciare l'Italia, diciamo che è un problema se si è costretti a farlo. Noi vogliamo essere liberi di scegliere se restare o partire, non essere costretti. E non è anche utile un ponte, una riconnessione con questi giovani che sono fuori, che potrebbero dare una mano da fuori o rientrando al paese? Tanti promotori della campagna sono persone che vivono all'estero e che dicono in qualche modo io voglio tornare. È evidente che per tornare, perché in tanti tornino in questo paese, devono cambiare molte cose. Crediamo che bisogna mettere tutti nelle condizioni di poter tornare. Quindi anche con loro ci stiamo attivando in molti paesi, in molte anche capitali d'Europa, sia con italiani che sono all'estero che con europei che si mobilitano sugli stessi temi. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.iovogliorestare.it. Un motivo per restare o tornare. Sono quasi 10.000 le startup milanesi nate con titolari under 35 su un totale complessivo di oltre 27.000 startup attive. Danno lavoro ad oltre 11.000 addetti, emerge dalle elaborazioni del servizio studi della Camera di Commercio. I giovani che fanno impresa nel capoluogo lombardo sono soprattutto uomini milanesi solo nel 41% dei casi. In un caso su 5 provengono da altre province, in quasi 4.000 sono nati all'estero. Sempre in tema di imprese è stato prorogato al 15 maggio il termine per la presentazione delle domande di ammissione alle misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore green economy. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è No ai cooptati. Dibattetene in 140 caratteri.